sì, no, no, un Carraggio il suo baracchino. Sì, anche la mascherina ti ha dato tu. E che la mascherina non l'ha, forse sarà un poco graffiata. Sì. Ma adesso è nuovo. Vabbè. Ma te l'ho detto, se me li dopo te li verniciavo io. Te l'avrei verniciato, te l'avrei fatti nuovi nuovi. Sono lì perché li ho buttati, non li ho buttati, non sono si immaculano. Sono lì. Oh, peccato, cavolo. E ma te come fai a levarne i grafici? Lo devi carteggiare. Ehi, lo stucchi. C'è lo stucco. Che cazzo, è andato un migoglio. Lo so. Ma non è che lo prendi solo per quello, lo prendi anche per altro. Se fai qualche altro lavoro ce l'hai. E adesso conservati, mascherina e coso, come si chiama? Mascherina e coperchi. Sono dentro l'armadio. Come si dice? Per caso. Che dovesse servire, lei già. Sono lì. Casino. Facciano una brugola nel naso, cazzo, che fastidio, porca paletta, va. Che duro. Una pistoletta. E allora, che fastidio, cazzo. Fastidio allucinante. Domani lunedì. Domani ragazzi devo fare. Devo, a proposito, io vedi devo salire a farmi il coso. A farmi la l'esenzione. Oh. Se lo pago tutto, Perché non c'è la l'esenzione? Mi è scaduta il 31 marzo. Ah, a me non mi scade mai, io ce l'ho sempre. Vabbè, perché ha le patologie. E tu perché cosa ce l'hai? Io ce l'ho per il reddito. Ah. Non so, per il reddito c'è l'esenzione. Ho capito, dai. Ho capito, anche se in molti posti, tipo dove fanno le analisi, fanno pagare anche quelli che sono esenti. Stavano facendo pagare perché me l'ha detto Natalino che lui l'hanno fatto pagare. Sì, io ho pagato 8 euro per fare il prelievo. Infatti adesso devo rinnovarmi questa cosa, farmi fare l'impegnativo, farmi l'analisi del sangue, io me li faccio spesso. Ma no, dalla Teoce c'è. No, via Umberto. E sono convenzionati, secondo me non lo potrebbero fare perché hanno la convenzione con la SL, poi sono problemi loro se la SL non li sta pagando o che cosa, perché loro si sono, diciamo, hanno detto che la SL non li sta pagando, loro devono pagare personale, devono pagare reagenti, devono pagare questo e quell'altro, e non ci sono soldi se lo fanno pagare. Sì, che l'avesse risarciti subito la SL, va bene. Là, il discorso è che dice non c'erano più fondi e allora stavano facendo pagare per quel motivo lì. Tu pensi che ho portato a mamma con le sue patologie, no? Non avevano fondi per fare le sue analisi, 40 euro, lasci perdere, gli ho detto. L'ho portata via, ho preso l'appuntamento al Palazzo Rosa e gliel'ho fatta fare lì gratis. E beh, 40 euro sono di là, non è. 40 euro te le fanno sotto casa mia per 40 euro le analisi, ma cioè perché devi pagare se si può fare gratis? È come la storia di quando devo andare dal cardiologo, io telefono e ho visto il cardiologo praticamente convenzionato con l'SL, telefonato e detto siete convenzionati con l'SL? Sì, ma adesso non ci abbiamo posti. Allora possiamo farle solo a pagamento, e facendo a pagamento cosa devono fare? Anche stasera alle 3:30 ando in Chivi, alle 3:30 non c'era un'anima viva, lui poteva farlo benissimo con la SL, non c'era un'anima viva, ero l'unico che sono andato, dopo magari è arrivata gente, però quando sono andato io non c'era nessuno. Beh, mi ha fatto pagare 80 euro, capito? 80 euro. Già. Casino, ti capisco, che devi fare? Quando una cosa ti serve urgente la devi fare per forza. Ma se ti faccio un esempio, un attacco per i denti costa 100 euro. Allucinante, grazie. A me me l'ha fatta il dentista, me l'hanno fatta, c'hanno il macchinario in ambulatorio, vabbè, me l'ha un dentista ad hoc, questo dove sono andato io, l'ultimo che sono andato, che è praticamente Basente, non so se tu lo conosci. c'è tutto quanto in ambulatorio, ti fanno tutto loro. E anche a Sena, il dottor a Sena lì, via Carlo Frici, hanno tutto. Uno studio un bel grande. Ci sono vari dentisti, capito? Sì, sì, anche lì me l'hanno fatta a me. Ormai mi è arrivato sin così. E per vedere come sono posizionati i denti, tutto quanto, devi farlo per quello. E comunque sta andando alla grande quello in Croazia, quel cagliaritano, quel dottore cagliaritano che è andato in Croazia, sta andando alla grande. Mi pare che ci sono sia in Slovenia e in Croazia, abbiamo aperto due ambulatori. No, Alberto Palmas. Esatto, quello lì dice che sta andando alla grande, ma c'ha delle apparecchiature, fanno tutto al computer, non sgarrano nulla, eh. Eh sì, non la sono come qua, no. Là sono, di nuovo, sono all'avanguardia, qua ti fanno pagare un patrimonio. Là oltre che ti fanno pagare poco, non so che tipo di materiali usino per mettere le corone, però fanno pagare di molto di meno e ti fanno il lavoro in fretta, non ci mettono 30 anni, cazzo, io quando l'ho fatto io, lui mi faceva tornare ogni giorno dovevo andare al meccanico dentista che doveva prendere le misure, questo, quell'altro, sono stato quasi un anno. E cazzo. Ebbene, Manuel, oggi sei più basso, Manuel, sei 4 e mezzo di segnale, manco 5. Vabbè, Manuel. Sei alzato, cosa hai fatto? Sono basso Manuele. Manuele, mi senti? Ieri sentivo bene, cosa avevi fatto? Boh, io davanti ieri. Eh? Ho capito. Che antenna devi mettere? Ah. Ma devi fare una piastra riflettente per diciamo per avere una buona massa, devi fare una piastra quadrata e metterla sopra la piastra, fare una piastra L e metterla lì, di modo che abbia un piano riflettente, capito? Ah, ho capito. Vabbè, speriamo che vada bene, dai. Speriamo che sia la volta buona. Ma se quella lì la sposta, io lo sentivo benissimo l'altro giorno. Prova a spostarla, Manuè. Cos'hai detto già? Boh, ho sentito fuori, ma non ho capito il resto. Ah, ha detto che ce l'aveva fuori. Ah, lo sentivo benissimo, bene bene. Adesso è proprio basso, in mezzo a QRM. Infatti ti ha detto, maniaco, metti la dentro. Manuè, ma queste cose si dice. Ha detto, queste cose si dice. Ha detto che ce l'avevi fuori. Gappa, se non si scherza, uia. Avanti, Natalino, ci sei. Marco Condo. Sto facendo il tiro a segno. Marco Condo. Che ho visto, sarò rivuto. Come già? Ho detto che ci sono tuppi da tirare. No, il bersaglio. Marco, tu lo senti a 5. Non lo so, sono rientrato adesso, fatelo venire avanti che tolgo lo squelci. È coppia? No, nulla. Spostala un attimino la mano con l'antenna, cazzo. Mettila fuori, Gico, un attimino a vedere se ti sei. Anche se la mette non so se mi sa che la magnetica, se non mi ricordo male. La mette magari sopra un piano di massa. Anche lì vicino alla finestra. Ma scusate, a voi quanto arriverebbe? A me sta arrivando tipo 2 così, basso. E tu sei poi esposto, Gianni non ne parliamo verso quella zona. E come fa ad arrivare qua? Non ho nulla. Ma a momenti stava arrivando 4, così, poi è arrivato 6 e mezzo. Ma gira, lì non si riesce a mettere un dipolo, non è possibile che non ci sia possibilità alcuna. Marco, la zona, capito, che non ti permettono queste cose, subito, se succede che subito qualche televisione sono casini. Qui arriva meglio adesso. Prova, 9-5. Vedi, qua arrivi 5-6, cazzo, ti ascolto bene adesso. Lo senti, Marco? Allora, lui arriva pari al QRM, però riesco a capire qualche parola. 9-5 comunque qua sì, Manuel. Sì, ho capito che c'è il palazzo davanti, la vuole mettere dalla parte più libera. Sì, ha detto così. Sì. E mettici un palo, fallazza. E ho capito dove, io so dove abiti, quindi ho capito come vuoi sistemare. E Manuel, prova a vedere se va bene così. E dove l'attacchi? Alla ringhiera, al ferro da stendere. Anche io l'ho fatto così, l'avevo messa dove c'è il ferro da stendere, però avevo messo la boomerang, solo che chissà di sopra quando stendeva la lenzuola si agganciavano e si stracciavano e mi hanno detto così, allora l'ho tolto. Quindi, ma quando sono lunghe già arrivano, e poi l'antenna era lunga perché era di quelle grandi, era una boomerang di quelle grandi. Cazzo, vabbè, ma come fanno a stendere? No, io la metto, io la stendo così, la metto da una parte all'altra del filo, metto il primo filo e l'ultimo, e la faccio tipo sacco così, e gli asciuga lo stesso. Vabbè, è solo che attaccati le rogne così, però già è vero. E la come l'antenna è nata la gabbisuri a futtindini, ma è. Ma difficile è salire sul tetto. In lamiera, cicata, ora ancora meglio, piano riflettente, come lamiera, fammi capace che non ha giù mai visto lamiera di Titti, come fa? Allora, già, invece di avere te, come avere lamiere? Boh, e te ne non si arrugginisco. No, se lamiera non si arrugginisce, è una lamiera particolare, no? Io lo so perché ho pensato un'altra lì a latte dolce, infatti da una parte ne mancava un bel vento, gliel'ha portato via, quel vento famoso forte forte che ha fatto. Sì, e sai cos'è già, camminandoci sullo schiacci, capito? Sì, sono fogli di lamiera. E poi si scivola, se tra la lamiera si scivola. Rosso è pericoloso, vabbè. Se il tento non è. Cioè va le spiovenze già va bene, se è in piano già non scivoli. Ah, ecco. Quello sì. E camminare di lato non fa. Ma la lamiera sarà messa su dei travuni, no? Eh beh, sul tetto proprio, sulla. O sui travuni. Cioè, piano il cemento e poi sono le cose, no? È come se fossero delle tegole, uguale. Capito? Leggermente ce l'ha una, come si dice, una pendenza ce l'ha già, capito? Se no l'acqua rimane lì. Comunque si schiaccia se ci metti i piedi e ci passi sopra. Lo so perché ci sono già salito. Sono andato nella, come si chiama? Hanno messo una specie di griglia lì per mettere le antenne. Infatti l'ho messa lì l'antenna. E niente, secondo me è una mezzo gaggadda. Se facciamo un tetto tipo quello di Gio Maria andava benissimo così, ci potevi camminare tranquillamente. È come il mio? È come il tuo, perché no? Però tu c'hai questo cavolo di coso, di ghiaia fastidiosa. Poi già va bene lo stesso, dai. Allora, il punto brutto tuo sai qual è? Dove c'è l'antenna che sali su lì? Perché poi c'è la specie di scivolo. Si va in chivi, ciao, ti saluto. Quello sì, quello già è vero. Infatti non va salito quando c'è umidità. Ma la ghiaia c'è per bloccare il catrame, per non farlo volare, capito? La ghiaia l'hanno messa per quello. Lì per andare a me dovevamo mettere un parapetto già, perché è brutto quel pezzo, trovo un cappuccino in crisi, vale addio, non so quanti metri sia, ma penso da quella parte lì sono un bel di metri. Ehi, tu fai 2 metri, fai 3 metri a piano, quello è sesto piano, fatti lungo. 18 metri, una ventina di metri sarà. Sì, più o meno, perché poi c'è il rialzo della cabina. Infatti, una ventina di metri dal rialzo della cabina. È brutto, brutto, brutto lì. Cazzo, mamma mia. Allora, non mi ricordo dove stavo piazzando. Allora, stavo piazzando una un'antenna e mi è caduto il nastro isolante. Però mi sa che Antonio riserva lì, tanti anni fa, nel palazzo suo. Ho detto, col cavolo che ci scendo lì, piano piano a prendere il rotto da isolante, sotto c'è il vuoto, l'ho lasciato lì. Oh, ti è caduto anche la volta che stavo piazzando l'antenna tua. Ehi, vabbè, quello già è facile, alla fine non è alto alto, se cadi, vabbè, ti fai male, perché ti fai male. Cavolo. Ehi, comunque, l'unica cosa buona che si potrebbe fare quando sali da me è avere la scala che arriva sino proprio lassù e non devi tremolare per sé. No, beh, alla fine date un gioco, ma proprio un gioco, non c'è problema. Una passeggiata, non devi fare salti mortali, sai. Apri la porta, si gira in terrazzo, metti una scala e sali su. Insomma, quel punto è brutto, molto brutto quello lì. Dove c'è quella... quel discesone, adesso chiamo discesoni. Spiovenza si chiama, spiovenza. Io lo chiamo discesone, cazzo, ci piace mangiare spiovenza, chissà, siamo discesone. Lo scivolo. No, no, no, la spiovenza è una cosa, quello è un discesone già, cavolo, si vale in chivi, ciao, sei fottuto, sei fregato, fottuto. E poi cazzo, potevano farlo un parapetto, no? Sai, uno magari può capitare, non deve capitare perché se capita addio, però si salva. Luca lì non era diciamo, non avevano pensato che potessimo salire noi per piazzare l'antenna, lì non ci sale nessuno, capito? L'antenna del televisore è attaccata in basso, è bassa, dai. L'hai visto dove è attaccata, no? Ci sono le attaccate al muro giù e si attacca in basso. Lì non era previsto, ma noi abbiamo scelto il punto più alto per attaccarla perché era meglio, no? Ma l'altra antenna è attaccata giù e il tubo è basso, non è che sia alto. Lo so, poi tu hai ragione. Lo so. Non hanno fatto i conti bene, che magari qualcuno potesse salire per piazzare l'antenna. E vabbè, meno male non ti avevo detto niente già, meno male. Vabbè. La manuela non penso che venga bene piazzarla, a meno che ci sia la griglia per mettere le antenne. C'è la griglia, Emanuele, non c'è più. Vediamo un po', Marco, ci sei? Sì, sono all'ascolto un attimino, sto messaggiando un attimino. Che griglia? Ho sentito la griglia. Si chiama la griglia dove si mettono le antenne. Ah boh, no, non vi seguo. Io semplicemente sei sul gabbiotto del palazzo, quello al centro del terrazzo, del tetto, da. Sì, ma a muro o c'è una struttura in ferro? No, a muro, zanca a muro, palo e antenna. No, no, no, questa si chiama griglia. C'è questa griglia fatta in ferro, si mettono i pali e le antenne, capito? Sì. Non l'ho messa io, questo signore c'era questa griglia, il ferro. Un po' gubiccia, ma. E poi il ferro di quello pesante. Infatti una parte era spaccata. Una parte era spaccata, allora gli ho dovuto mettere. Cioè, non spaccata, disaldata. Gli ho dovuto mettere un pezzo di fil di ferro per tenerlo fermo. È un casino piazzare le antenne lì, è un casino. E adesso stanno facendo con l'antenna della televisione, quelle che si mettono nel muro, dice che prendono tutti quanti i canali e prendono anche Sky, eccetera, eccetera. Non paghi abbonamento, lo paghi nulla, bigliari tutto, così maledetto, poi se è vero non lo so. No, non posso che prenda Sky, e cazzo, ci vuole la scheda per quello. Comunque, queste antenne che stai dicendo tu, sì, prendono un bel canale, ma non tutti e tutti. Già, c'è un'antenna dentro casa, poi dipende dalla posizione, se c'è Monteolo di fronte, sì, allora sì. Tipo tu ce l'avrai di fronte, che se non mi ricordo male, come ce l'ho io. Però non penso che prenda tutti i canali. Cioè, prendo una parte di canali, però le antenne messe all'esterno, quelle prendono, cioè, è normale, prendono tutto. È come se tu c'hai l'antenna del baracchino dentro casa, cazzo, l'antenna sul tetto. La differenza, vabbè, senti sì, ma non senti molto, ecco. A noi il tecnico, quando è venuto a cambiare l'antenna, perché era quella che prendeva i disturbi, perché era brazzica, era farada, quando l'ha cambiata, ha messo una fraccarro e mi ha detto, con questa antenna non c'è bisogno manco dell'amplificatore, perché ci avete Monteolo davanti e prende benissimo, non c'è bisogno di amplificatore, voi avete messo l'amplificatore quando non c'è bisogno, che ve lo fa fare, avete l'amplificatore che prende, si prende anche tutti quanti i segnali, i rumori esterni, eccetera. No, ci vuole il, come si chiama? L'amplificatore, ci vuole la centralina. Sì, l'amplificatore dell'antenna, cos'è? boh, è che ma se siete in tanti come fa? Non ce la fa a ricevere. Non so, massimo di, non so quante TV può ricevere. Con poco a poco di segnale lo perde, invece con la centralina, come si dice, poco a poco di cose glielo devi dare, ma poco. Per far sì che arrivi il segnale bene a tutti, capito? È fatta apposta già. Non credo che io se metto un'antenna e poi alimento 10-20 appartamenti, non ce la fa. Io non ho problemi a casa, c'ho due televisori, voglio tutti e due bene. Non sono né effetto neve, né righe, niente. Proprio si vede perfettamente. Infatti qua lo vedo bene, a casa di mamma qualche volta succedeva che si vedevano i puntini, però forse perché erano antenne vecchie, che ne so. Questa qua adesso minimo ci ha preso 10 anni, questa qua che l'ha cambiata. E vabbè, allora ti spiego, non penso che sia, adesso è un'unica antenna che fa la VHF o HF. Non penso che ci sia la calatta e fa le partizioni degli appartamenti, non credo. C'è proprio una centralina già, per forza, e amplifica un po' il segnale, perché essendo, cioè fai ogni appartamento ha 2-3 TV, quanti siete voi? Quanti appartamenti sono? 14. Quanti cazzo vai, scusa? Ci vuole, un minimo ci vuole. Non fa già. Sai, per te ok, devo fare. Oh, non so, poi forse se ce l'ho affrontata, però so che ci vuole la centralina. Praticamente rubavo il segnale all'altro televisore. E mi avevano messo un partitore d'antenna, perché così normalmente rirubava il segnale e si vedeva male. Beh certo, si vede male sì. Ma cosa? È finito di chattare? È finito di fare il quarapapà? È finito di fare poco, eh? È finito? Ma con il condo? È finito? Togo gatto? Non parli, eh? Sai cos'è già? A me è capitato di piazzarla in via Attilio De Feno. Praticamente in un fosso, cioè nel senso che lui ci ha circondato da palazzi. Allora gliel'ho piazzata questa antenna con il come si chiama? Lo strumento, nulla, mi dava segnale zero completamente. Come gli ho attaccato l'amplificatore, mi dava praticamente da 1 a 10, cioè la scala da 1 a 10 mi dava 5-6, però grazie a Dio si vede tutto. Vabbè, vuol dire che non ne arriva in pieno il segnale, perché è lontano da Monteoro. Noi abbiamo, diciamo, la fortuna che siamo di fronte, capito? Abbiamo la fortuna, dice, qua non c'è bisogno manco di amplificatore. Questo è un vero e proprio amplificatore, perché è attaccato all'elettrico, proprio c'è la spina. Quello lì c'avete. Eia, c'è quello lì, è su, è posizionato, ho visto dove c'è la porticina per entrare nel tetto. Dall'altra parte rimane in alto, è posizionato lì. E quello l'ho amplificato dall'antenna già. Sì, sì. E da lì partono tutti i fili. Stavo dicendo, se te la piazzi per i fatti tu, ti fa la calata per te e non c'era problema. Poi non lo potresti anche fare, se vuoi. Te lo passi, ti faccio un esempio, te lo passi nel cavo del baracchino e devi fare un collegamento solo a una presa e poi ti arriva tutte le prese, capito? Se tu ce l'hai con le prese, con i cavetti delle prese, hai giusto? Sì, c'è. Ecco, lo agganci a una di quelle prese, perché c'è il capo che passa sotto traccia, e tra buoni per i fatti tu volendo, e che problemi vai? Il problema è che se voi avete un problema, a quell'antenna lo avete tutti, e invece se tu ce l'hai per i fatti tu, i problemi non ne hai. Quello sì. E vabbè, ma la centralizzata adesso ce l'hanno tutti là, se la centralizzata è più conveniente, se ti si rompe viene diviso, viene partito fra tutti i condomini, la spesa eccetera eccetera, quindi è più conveniente, dai. Ma sai cos'è il problema già? Il problema è che quando avete un problema ce l'avete tutti, invece se tu ce l'hai per i cavoli tuoi, alla fine la spesa è minima, più o meno la spesa è quella, perché se è un problema all'antenna ti cambi solo l'antenna, vabbè ti fai il cambio cavo della calata, alla fine mi sembra minima, ora è proprio poco, cioè meno, molto meno. Tu pensa che è un'unica antenna e in più non c'è bisogno della seconda antenna e ancora non hai bisogno del, cioè non hai più bisogno del, come si chiama, del del miscelatore. 148 euro mi pare che avevo pagato per piazzarlo. A testa? No, in tutto. Ah, ma va bene. Quindi non è che antenna l'hanno messo. E già, quando tu lo vuoi fare, fammelo sapere, io ti faccio fare anche la cosa, se vuoi. La, come si chiama? La, il coso, il, la ricevuta. Fra carro si chiama l'antenna, fra carro. Sono buone, sì, sì. Sono buone, cioè sono antenne che costano tipo una 30-40 di euro, sono buone lo stesso. Hanno un ottimo guadagno, lo so da un amico perché lui le compra. Ma fra carro dice che sono delle migliori, così ha detto il tecnico, cioè io prendo solo fra carro perché sono delle migliori. E confermo. Vabbè, ma grazie a Dio già si vede bene qua. Allora come si fasciava, che mi sembra un po' bidere, perché a volte quando parli delle cose poi butti su zizi. Allora l'altro giorno mi ha detto, tutto bene, sì, non mi fa più male il femore, niente. Cazzo, mi alzo la mattina mi faceva male il femore, poi vabbè, come ho camminato non mi faceva più male, però poi mi è passato di tutto. Però intanto, vabbè che questo periodo di dolori ce li ho da tutte le parti, quando mi alzo la mattina faccio trac, trac, trac, barichi va giù, i gusci delle uova a sole. Sì, vabbè, ti sento che stai meglio già, no? Cosa vuoi te? Fate una cuccia, vai! Vai, dopo ti ho la pappa, tra un po' mi alzo tra l'altro, va. Mi sembra se il telefono è carico, vediamo, sono i messaggi qua. Ma il mio cugino si è andato ieri? Come già? Ho detto, il mio cugino si è andato ieri. E ieri notte alle 2. Chi c'era? Sara. Aspetta un attimo. Sara ha cantato. Su, sì, su. No, sto ascoltando un messaggio di un amico che fa serate. Ah, ho detto, ieri sera ha cantato Sara. Ehi, ma un audio pessimo, un audio, io audio così brutto non ne ho mai sentito, due microfoni di 13, allora i microfoni vogliono, come si dice, quelli senza fili Gianni, quelli col filo non sembrano un cavolo, poi, ovvio, esistono dei microfoni con il filo. Sì, ci sono gli Shure, quelli come ce l'ha Elena, che gli ho regalato io a Natale, che è buonissimo, che si sente un bel bene lui. Io gli ho regalato lo Shure perché sapevo che la Manuela, che erano buoni come microfono, e gli ho regalato quelli, e va molto bene. Volevo dire, i microfoni quelli buoni ci sono col filo, non ce l'ha Costantino dove vado io, lui c'ha un impianto buono, buono, ci canti bene, c'ha un microfono grigio, è buono, è uno nero, io canto meglio col nero, l'altro non rince, cioè, va bene, perché va bene, però con il nero spinge di più, e poi ne ha uno di quelli col filo, adesso quello lì è un bombo. Io ne ho due, tre, quattro senza filo e uno col filo. E poi quelli senza filo, due li posso mettere sia il filo che usarli senza filo. Vabbè, comunque, come si dice? Ce ne sono pochi che hanno un impianto come Dio comanda, ma pochi, proprio si contano su un palmo di una mano già. Ma quello di Sara, vabbè, non è roba sua, ma pessimo, pessimo, cosa vuol dire? Un radio bruttissimo, guarda. Ma il ragazzo fa il DJ? No, butta fuori. Praticamente lei come canta, io non l'ho mai sentita cantando. Ma che bravina sarà cantando? Bravina? Sì, sì, è brava fina. Cappa. Io non l'ho mai sentita, eppure mia figliuccia mi ha invitato a andare, mi ha invitato quando è sabato, che devo fare la serata, però con chi ci vado? Ciao, se vuoi organizzare un sabato me lo dici, ci facciamo un salto, ma sono tutti di Nandi Ghizzo, di Nandi, se vuoi me lo fai sapere, o venerdì. Però c'è un audio pessimo già, un audio bruttissimo, ma cosa vuol dire brutto? A meno che chiama qualche karaokista che ha un impianto come videocomanda, altrimenti quello è veramente brutto. Cioè come se abbia due casse di quelle di, delle, messe quelle radio compatte, no? Che c'erano due casse separate. Ma anzi, forse suona meglio la mia radio che quell'impianto lì, ma brutto qua, brutto brutto. E poi se non li porto la casa a 2000 watt che c'ho a casa. E qui si è rumanco, gattale. Ma cari dai, gatto. E se la comprato una da 2000 watt. Quello è veramente troppo forte anche, Luca. Troppo, si sente troppo forte. Per un appartamento non va bene, è esagerato. A tutto volume non la puoi mettere, perché ti fascia duro. 2000 watt sono 2000 watt, cioè non stiamo parlando di noccioline. Lascia vedere Margherita, live, no. Oh, da quanto tempo? Che fa di gabbo, che... Sì. Già, sai cos'è il discorso? Che meno spendi meno hai, è inutile. Meno spendi e meno hai. Io ci vado a 200 watt, Luca, va benissimo, c'ha le luci, tutto quanto, si sente bene. Ed è 200 watt, però per quella che c'era, va bene per un locale grande, capito? Perché fa di un bel brutto. Se tu la metti al massimo, guai, fa vibrare tutto. È un bel alto come cassa. E quella che c'ho io va bene lo stesso, va bene e canti tranquillamente, c'ha tutto, c'ha l'eco, c'ha tutto qua. Allora, le migliori dicono, le migliori in assoluto sono le FBT. Ma le FBT, ci chiamano in bocca. Che non avevo mai sentito, con la Y inizia, anche quella di L era la stessa marca. E niente. Funzionano bene, lui, io mi ascolto anche alla radio, la mattina io ascolto le DS, mentre faccio le cose, pulisco le gambe, mi attacco alla radio, mi fa compagnia, no? Fanno gli scherzi alle persone gelose, cazzo, fanno certi scherzi allucinanti, fanno crepare dalle risate. Allora, ci sono le RCF. Aspetta, mi sto andando adesso, aspetta, cioè, sì, sono. Allora, aspetta. Allora tu pensa l'FBT, allora FBT, cazzo, comunque sono tutti picciti, tutti brutti, solo la giubulitti, ma vedo una mazza, comunque mi sa sono da 2000 queste qua, 1429 euro, ma stiamo parlando di una cassa seria, E ci sono a Montalbo che sono, sono delle migliori, che li usano anche nei complessi quelle. Perché l'FBT? Secondo te? Anche l'FBT? È perché, come si chiamano? Bah. E adesso non mi viene, dopo quando mi viene te lo dico. Sono memone anche quelle lì, casse piccolissime che fanno dei zucchi allucinanti. C'era un amico mio, la moglie gli aveva fatto dare le casse Zendar che ci aveva in casa nell'impianto da 100 watt, di quelle alte perché la disturbavano. Si è comprato Bose, insomma, le Bose. C'aveva due casse piccoline e su subwoofer, ma tu devi sentire che suono. Sì, sì, sì. E allora già. Se vogliamo un impianto ci vogliono casse buone, mixer buono e microfoni buoni, inutile, è inutile così. Se no, come si dice? Se non c'è un suono buono, non vai da nessuna parte, capito? Proprio quello di sera ieri era proprio, mi sono scappato, pessimo, proprio mamma mia, è bruttissimo, ragazzi, cioè, si deve sentire bumbo, sarebbe tutta cosa, questa barattolo. A volte l'impianto vuol dire molto, eh. Non so se fosse solo l'impianto di chi fosse, se del circolo, boh. Però l'impianto vuol dire molto, ma dico, se bisogna avere la tessera. Non ho capito già, scusa. Bisogna essere tesserati per entrare in quel circolo di via Boncino. No, vabbè, ci vuole la tessera, ma già, se vieni con me già ti fa entrare. Ehi, vabbè, però se non gli dico che sono il padrino di Sara, già prima di entrare, cappa. L'ho battezzata Sara, gli butto la mano in capo. Allora, come si chiama? Il padre non mi ricordo come si chiama. Bastianino, che lo conosco. Poi c'è il fratello, si chiama Andrea mi pare. No, Simone. Ah, Simone, scusa, sì, Simone, sì, sì. E la conosco qualche anno. Vattene a cuccia, dopo ti do la papà. Mi alzo, vai. Vattene. Vattin. Hai messo il colore nuovo, Andrea, già. E poi quello seresto. A scuola, e quanto l'hai pagato? Costava, prodotto kill costava 50, l'ho pagato 36. L'hai pagato molto, io ho 4 fiorette e le ho pagate 36 euro. Ma come la mette lì se resto, già non si attacca un cavo, non si attacca. Vai, in via Rockefeller, c'è la farmacia per gli animali, e te lo compri. E ti dura 8 mesi. Non so, ma il cane a casa lo toccano tutti, e con questo collare, se ci sono bambini e cose che lo toccano, mi dà fastidio quello, capito? Invece con le fialette, ti metto la fialetta e dopo se la assorbe e non succede più nulla. Già, cosa fai? Li prendi il collare e sopra gli metti il collare antipulci, ovviamente, e sopra gli metti il collare normale, e così i bambini non lo toccano. Allora, non devono lasciare il problema, perché non la toccano, Andrea. Non succede niente. Una pulce con una zecca, nulla, non si attacca a niente. Sono micidiali quei corsi. Dai 7 agli 8 mesi dura. Manco peso ne ho mai avuto, solo che il fatto che duri così tanto è buono, ma ho sentito qualcuno che ne l'ha messo ed era allergico, il cane ha perso tutto il pelo dove le ha messo quel collare, lo sai? Provaci col seresto, già non si attacca un cavolo, poi per quanto lo porti tu quel cane sempre in casa, che te lo fa fare? Il mio non ne ha mai avuto le zecche, le pulci, le cose, no, ma già lo porto io, lo porto anche al mare, l'ho portato anche da poco a Platamone. È fatto bello, io lo prima lo portavo andando a Vuoli, adesso Vuoli non ci sono più e niente. Sì, vabbè, e tu è femmina intanto, un giorno lo portiamo, non c'è problema, andiamo e lo portiamo. Che problemi ci sono? Non sai, a Platamona ci sono quei cani randaggi e praticamente c'era questo cane che stava sempre abbaiando a Tyson, alla fine ci aveva la museruola, gliel'ho tolta la museruola, che lo sai che lo musigheggia. Fatto sta che lo stavo per caricare in macchina, cattivo questo cane di merda è andato per morsicarlo mentre lo stavo caricando in macchina, si è girato Tyson, gli ha avuto dei mosci, se ne è fuggito, cacca. E beh, sono quei cani randaggi. Non so se ti ricordi quella tipa che dormiva alla rotonda già. Sì, quella che aveva fatto sequestro, eccetera, eccetera, e poi è morta quella. Questo accampamento ci aveva fatto lì, che è allucinante. Ma come si fa, dai? Poi la faccia a mare, mi ha freddo. Ma però non vuoi dire che mi sarà molto a Baghi su voi. Ma ti chiedevo i soldi per il caffè, i soldi per questo, i soldi per l'altro. Ogni volta che passavo mi chiedevo qualche cosa. E Marco con la mamma li portava da mangiare, lo sai? Chi? Marco Condor li portava da mangiare, infatti dicevamo che era la fidanzata. È vero che ero sempre su di per il caffè. Ma io dico, ti vuoi fare una baracca, un coso, cazzo, ma non lo facciamo male, dai. Ce l'aveva a spalle il mare, un freddo, per carità. Poi se l'avrò fatto nella panchina, se avrò fatto una tettuia, insomma, aveva coperto tutta la panchina, ce la farei, si bucava nella banchina. Poveraccia, che vita, no, no, io non ci riuscirei. Beh, quello che ha fatto, nessuno l'ha aiutata, capito? Avevano fatto sequestro di persona. Lo so, mi ricordo, è vero. Non avevano passato come Dio comanda. È stata in galera tanto tempo, la volevano mettere in istituto, a quanto so io, però lei se l'ha rifiutata perché detto che non voleva orari e non voleva nessuno che la comandasse, che in galera c'era già stata e che non voleva ritornare di nuovo in galera. Beh, certo. E poi c'erano questi cani marroncini che seguivano sempre la Dea e al cane di lei. Vabbè, comunque non c'è problema, si può organizzare un gioco o domenica. Ah, devo mangiare un mugiolastro in kiwi a consultore da burro, invece c'è una piazza italiana, mi sembra un'ottore, c'è una gelateria, si può andare anche lì, si lasciano liberi. Poi se lo vuoi portare in spiaggia, farlo correre, lei ha già scazzia di brutto. Ma Tesoro, io in spiaggia non lo mollo, perché se poi se ne va è un casino a prenderlo. Ah, ok, a guinzaglio. Sì, io lo tengo sempre a guinzaglio, non lo mollano. Magari se c'è Dea, sì, perché poi va presso lì a giocare, allora lo posso anche fare, capito? Perché gioca e va presso lì, quindi già lo posso prendere, quando si avvicina lì si avvicina anche lui. Ma se non c'è altro cane, e poi lui, capito, se vede altri cani maschi è un casino. Infatti, no, lì già torna tranquillo, ma lo lascio libera io. Ma è già una femmina, lui è diverso, le femmine sono più docili, invece i maschi sono più aggressivi, più territoriali, devono dimostrare la loro forza, capito? Vattene, che ti voglio, saluta Gianni, non mi leccare, saluta Gianni, come senti Gianni? Sì, senti. Mi vuoi salire sopra le tue guai a te, minna? Ma te ne cucci, vai, adesso ti vado a mangiare, va. E 3 anni fa, a luglio, memore di babbo, Simonella è sorda per ogni tanto, è sorda, farà sorda, vero? Quello che farà sorda, digliela a Gianni che farà sorda, non glielo dici? Farà sorda, non glielo dici a Gianni? Mi miro qui fino del computer, guai, ti ammazzo io, ammazza babbo, ammazza la buccia. Il vaccino quale li stai facendo? Io sto facendo quello di 2 anni, che dura 2 anni. No, la cosa non gliel'ho fatto perché mi ha detto è stato onesto, il veterinario mi ha detto che io non faccio, tanto lo tengo molto in casa, una volta all'anno, una volta ogni 2 anni, scusa. Se ne faccio una, pago 50 euro e vale per 2 anni. Già, una volta ogni 2 anni, perché lì rimane troppo a casa, capito? La porta e basta, non sta molto in giro. Ma anche Tyson, quando esco la porto, se è il posto che lo posso portare lo porto, però se devo andare in un ufficio per dire non mi porto il cane. Però di solito è sempre con me, ma diciamo che non va in campagna dove ci sono zecche e roba del genere, no. Adesso lo sto portando perché vado a accompagnare Elena, quando torno alle 9:20 mi fermo in quel giardino che c'è a Sassari 2, quel parco che hanno fatto, non so se ce l'è presente, via Berlinguer lì. Praticamente non ci sono cani, lì è tranquillo, c'è un parco grande con l'altalena, tutto quanto, e in più c'è un parco dove puoi portare il cane, tutto quanto, alberi e prato verde, capito? E lui lì ci sta da Dio, si gratta anche la faccia, si struscia tutto nell'erba, si diverte un bel. lo lasci libero, no? No, no, libero non lo lascio mai io, sempre a guinzaglio. Il cane io ho questo pignone qua, che il cane per poterlo gestire bisogna che sia a guinzaglio. Poi la gente può fare quello che vuole, dice che è bravo, dice che qua. L'altro giorno questo qui ha messo un pitbull attaccato al palo, no? Ho passato questo signore che ha un cane miticcio, che però lui è molto affezionato. Cosa ha fatto questo pitbull? Ed è lo stesso che ha morsicato a Tyson. Si è staccato dal palo, ha strappato la cinghia, perché ha attaccato con la cinghia di pantaloni, nemmeno con un guinzaglio. L'ha strappata, è andato da questo pitbull, il padrone, da questo signore qua che c'era il cane. Il padrone ha visto che stava andando contro di lui, l'ha alzato in alto, perché è un cane piccolo, l'ha alzato in alto per non prenderlo, e il pitbull lo spingeva per farlo cadere. Ha detto: una forza allucinante, mi stava spingendo per farmi cadere il cane. C'erano i cassonetti, l'ho messo sopra il cassonetto, è saltato sul cassonetto, l'ha preso, l'ha addentato, gli stava uscendo l'occhio fuori dall'orbita. L'ho visto così, l'ho preso a calci, a pugni, ha detto che non si è staccato, finché è arrivato il padrone, gli ha dato il comando di staccarsi, e ha gran fatto anche a lui, l'ha tutto quanto sbrandellato nel braccio, l'ha denunciato. E ti credo, beh, non è un animale che poi, già, come conviene fare un'assicurazione, che se morde qualcuno, un casino, ma sa guai, ma sa guai. Fa male il braccio da ieri qua, come ha appoggiato quei cosi dell'armadio. E niente, che adesso io mi alzo e devo dare la pappardia, mi musica di libidia, vabbè, dammi. Vai nella cuccia, vai! Vai. Stiamo cercando i piedi, no? Non mi fa scendere, guarda. Aia! Ah, è una stronza! Ma se vedi un musichetto, vai. Dammi la pallina, esci! Dammi la pallina! È intelligente, Miglia, è un'intelligenza unica. E anche io te dico, ma prendi la palla e la prende e me la porta avanti. Poi sai cosa fa? Non me la molla, no? Mi viene davanti, la molla, quando io vado a prendere la riprende e se ne scappa. E l'altro giorno gli ho lanciato la pallina, ragazzi, ci sta dietro al mobile, adesso a prenderla è un casino, bisogna spostare tutto il mobile. E allora l'ho lasciata lì, abbiamo finito il gioco lì perché stavamo giocando, ma... Poverino, mi è dispiaciuto perché mi guardava come dire, beh, non me la lanci più la pallina. Già, dammi, ci sei, 10 minuti, che dovrò mangiare a te, dai. No, io devo andare a portare giù a Taiso, ho visto che è tardi, non mi ero accorto dell'ora, adesso devo togliere la carne dal freezer anche a lui, e dopo quando torno gliela faccio, con la pasta e le crocchette, là. Poi devo comprare carne di cavallo, perché l'altra carne mi stava facendo male, mi stava facendo la diarrea. Vabbè, dai, portala adesso, ci sei, io gliela lascio acceso qua, se ne è voglia. Ci sentiamo dopo, dai, vedo da mangiare a bere, ho fame anche io. Poi devo fare anche le palline a mamma, dargli le pastiglie, di una pastiglia stanotte. E niente, devo fargli le palline. Dai, ci sentiamo dopo magari, se ci sei, gliela lascio acceso qua. Non lo so, perché mi guardo in giro di sconti stasera. C'è lo show del record che io non mi perdo mai, mi piace. Ah, anche io me lo guardo quello, sì, va bene, già, alla prossima, ok, buonanotte, buona passeggiata, e buona carica. E altrettanto, ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao. So where you at now? Good cops in the Great Lakes of Michigan. All right, Leader Triple One, it's a pleasure, man. I like to hear people spike the mic from time to time. You know you go way back. Hope to see your face one of these days at one of them functions. Leader Triple One, the one and only store fight the wall with the two Russian girls there for dance, man. Good to see you.